Dialogo 15. Raccontò Abu Dhar: un giorno chiesi all'apostolo di Allah che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Tu l'hai visto il tuo Signore? Mi rispose: come potrei vederlo? Egli è la luce.